Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Traduzione di Elio Vittorini. In 5 minuti la Jane divenne teatro d'una tumultuosa devastazione. Il ponte fu squarciato e strappato via. Il sartiame, le vele e tutti gli attrezzi di manovra abbattuti, come per incanto. E nel frattempo, rimorchiandola con le canoe e spingendola a nuoto per di dietro e dai lati, quella moltitudine di miserabili riusciva, fatto scivolare il cavo, a condurre la nave sulla riva per rimetterla nelle mani di Tow Whit, il quale, durante la battaglia, non aveva lasciato, da vero e proprio generale, il suo sicuro posto d'osservazione tra le colline, ma si degnava, ora che la vittoria era pienamente raggiunta, di accorrere con le sue guardie dalle pelli nere a prendersi la sua parte di bottino. La discesa alla riva di Tow Whit ci permise di uscire dal nostro nascondiglio ed esplorare la collina su cui dava il burrone. A 50 yard circa dallo sbocco del quale vedemmo una piccola sorgiva e nell'acqua di essa spegnemmo l'ardente sete che ci consumava. Non lungi di là c'erano alcune macchie della specie di nocciolo cui ho già accennato. Assaggiandone le nocciole, le trovammo gradevoli al palato, d'un gusto pressappoco simile a quello della comune nocciola inglese. Ne raccogliemmo allora tante da riempirci i cappelli e, andati a deporle nel burrone, tornammo subito per prenderne altre. Mentre così eravamo tutti intenti alla raccolta, un improvviso fruscio nei cespugli ci mise in allarme. E già stavamo per ritirarci furtivi nel nostro nascondiglio quando un uccello nero, della specie dei tarabusi, venne lentamente fuori, con sforzo, dalle prunaie. Io ero così sorpreso da non saper cosa fare, ma Peters ebbe la presenza di spirito di precipitarsi addosso alla bestia prima che fosse in grado di scappare ed afferrarla per il collo. L'animale si mise a urlare e a dibattersi così da forsennato che, per il timore non attirasse l'attenzione di qualche selvaggio che poteva ancora trovarsi imboscato da quelle parti, fummo quasi sul punto di lasciarlo andare. Ma una stoccata di coltello lo ridusse infine privo di vita e noi ce lo tirammo dietro nel burrone, contenti di esserci, per ogni buon conto, assicurati tanto cibo da bastarci una settimana. Uscimmo quindi di nuovo in ricognizione, spingendoci giù per il pendio a sud, un bel pezzo avanti, ma senza trovare altro che potesse servirci di cibo. Ci rifornimmo allora di legna secca e ce ne tornammo, siccome 2 grossi gruppi di indigeni, tutti carichi del bottino fatto sulla nave, s'erano messi sulla strada del villaggio e avrebbero potuto vederci mentre passavano a piè della collina. Ci preoccupammo allora di rendere il nostro ricovero più sicuro che si poteva e a tal uopo disponemmo degli sterpi dinanzi a quell'apertura per la quale, nel raggiungere su dall'interno dell'abisso la piattaforma, avevamo scorto un lembo azzurro di cielo. Lasciammo solo uno spiraglio, largo appena quanto occorreva a tener sott'occhio la baia senza rischio di venire avvistati di giù. Portato a fine codesto lavoro, ci rallegrammo della posizione sicura nella quale in tal modo ci trovavamo, dapoiché, fino a quando si fosse rimasti dentro al burrone, senza avventurarci per la collina, saremmo stati assolutamente al coperto da ogni sguardo. La mancanza di tracce umane ci dimostrava che gli indigeni non erano mai stati là dentro. Ma riflettendo intorno alla probabilità che l'apertura attraverso la quale eravamo riusciti a penetrarvi noi si fosse formata solo in seguito al crollo dell'opposto pendio, sicché non avremmo potuto raggiungerla per altra parte, non fummo più tanto lieti di trovarci al sicuro quanto spaventati di non poter in alcun modo discendere. Decidemmo perciò di esplorare punto per punto, alla prima buona occasione, la sommità della collina. Intanto non perdevamo di vista, attraverso la nostra feritoia, quello che i selvaggi facevano. Essi avevano spogliato la nave completamente e si apparecchiavano a darle fuoco. Vedemmo in breve grossi turbini di fumo sprigionarsi dal boccaporto centrale e poco dopo un viluppo di fiamme alzarsi folto dal castello di prua. L'attrezzatura, gli alberi e quanto ancora restava delle vele presero subito fuoco e l'incendio si propagò in un batter d'occhio da un capo all'altro del ponte. Una gran folla di selvaggi era però rimasta a bordo e con grosse pietre, asce e palle da cannone martellava sopra le chiavarde e tutte le cose di ferro o rame. Sulla riva, nelle canoe, nelle zattere, v'erano non meno di 10.000 indigeni che si tenevano attorno alla goletta, senza contare quelli che, carichi di bottino, già si erano messi sulla via del ritorno verso l'interno dell'isola o verso le isole vicine. Prevedemmo allora una catastrofe e non fummo delusi. Vi fu per prima cosa una scossa così vibrante che dal nostro posto d'osservazione ci parve di provare una leggera scarica elettrica. Ma ad essa non seguì alcun visibile segno di esplosione. Evidentemente i selvaggi ne rimasero sorpresi e interruppero per un attimo i loro martellii e le loro grida. Stavano poi ricominciando quando ecco dal sottoponte scaturì all'improvviso una massa di fumo che era come una nera, pesante, nuvola temporalesca e un getto abbagliante di fuoco che parve sgorgar fuori dalle viscere di essa, salì nel cielo sino a un quarto di miglio di altezza e si dilatò in cerchio, e tutta l'aria in un attimo ribollì d'un magico caos di legno e metallo in frantumi e di membra umane, sino a che l'esplosione non toccò il suo furore estremo, per il quale ci trovammo scaraventati a terra, mentre le colline echeggiavano e riecheggiavano il fragore e una fitta pioggia di detriti minutissimi precipitava diritta da ogni parte intorno a noi. La strage fra gli indigeni superò le nostre speranze più spinte. Così essi raccoglievano il frutto del loro tradimento. Certo, ne perirono e almeno altrettanti rimasero spaventosamente mutilati. La superficie della baia era in tutta la sua estensione letteralmente cosparsa di codesti miserabili che si dibattevano e affogavano. Né sulla spiaggia l'agitazione appariva minore. Del tutto terrificati per la subitaneità e la completezza della loro sconfitta, nulla facevano per prestarsi soccorso. Ma ad un tratto notammo un totale cambiamento nella loro condotta. Da uno stato di assoluto stupore parvero passare a uno di non meno assoluta eccitazione e selvaggiamente si precipitarono verso un punto della spiaggia per subito ritirarsene in fuga, coi volti che esprimevano orrore ed ira, nonché una viva curiosità, ed urlando a squarciagola «Tekelili! Tekelili!» Vedemmo quindi una turba di questi forsennati sparire tra le colline per ritornare poco dopo con dei pali di legno. Li portarono sino al punto dove più fitta era la ressa, che allora si aprì in maniera di lasciar scoperto alla nostra vista l'oggetto di tanta agitazione. Si trattava di qualcosa di bianco, disteso a terra, che alla prima non capimmo che fosse, ma che infine riconoscemmo per la carogna dello strano animale dai denti e degli artigli scarlatti che avevamo trovato in mare a 18 gennaio. Capitan Guy ne aveva fatto serbare il corpo nell'intento di impagliarne la pelle e portarsela in Inghilterra. Mi ricordo che aveva dato degli ordini in tal senso prima che arrivassimo nell'isola e che la bestia era stata chiusa in un cassone della sala. Ora l'esplosione l'aveva gettata sulla spiaggia, ma perché suscitasse tanto scalpore tra gli indigeni non riuscivamo a capirlo. Sebbene tutti le si fossero affollate intorno, mantenevano una certa distanza e nessuno sembrava disposto ad avvicinarsi di più. Poi gli uomini che erano andati a prendere i pali piantarono questi tutto in giro alla carogna e, finito che ebbero, l'intera moltitudine si tolse di là a precipizio, dirigendosi con alte grida di «Tekelili! Tekelili!» verso l'interno dell'isola. Durante i primi 6 o 7 giorni che seguirono, restammo nel nostro nascondiglio sulla collina, senza uscirne che assai di rado, e sempre con le più grandi precauzioni per rifornirci di acqua e di nocciole. Avevamo installato una specie di tettoia sulla piattaforma, al riparo della quale mettemmo insieme un giaciglio di foglie secche e disponemmo tre larghe pietre piatte a farci da focolare e da tavola. Ci riuscì facilissimo accendere il fuoco, sfregando l'uno contro l'altro due pezzi di legno, l'uno di tenera fibra, l'altro duro. L'uccello di cui ci eravamo impadroniti tanto a proposito risultò essere un pasto eccellente, ancorché un po' coriaceo. Non era un uccello marino, ma, ripeto, una specie di tarabuso dalle penne di un nero giada a spruzzi di grigio e con ali assai piccole in rapporto al corpo. Ne vedemmo in seguito ancora tre della medesima specie nelle vicinanze del burrone, i quali pareva cercassero quello da noi catturato, ma come non si posarono a terra, venne a mancarci l'occasione di impadronirci anche di essi. Finché l'uccello durò, la nostra situazione non ebbe nulla di penoso, ma finito quello, divenne d'una preoccupante necessità pensare a provvederci di cibo. Le nocciole non ci bastavano affatto a calmare la fame, poi, se ne mangiavamo troppe, ci procuravano forti crampi agli intestini e violenti dolori di capo. Avevamo notato grosse tartarughe lungo la costa ad est della collina. Se ci fosse stato possibile spingerci sino ad esse senza essere visti dagli indigeni, avremmo potuto impadronircene facilmente. Perciò risolvemmo di tentare una discesa. Ci mettemmo in cammino per il pendio a sud, che ci pareva il meno difficile. Ma quando ci fummo avanzati di 100 yard, ci trovammo, come avevamo previsto osservando i luoghi dalla cima, dinanzi a un ramo della stessa gola nella quale erano periti i nostri sventurati compagni. Costeggiammo codesto precipizio per circa un quarto di miglio, sinché di nuovo arrivammo sull'orlo di un profondo crepaccio, e visto che c'era impossibile calarci lungo la sua parete, ritornammo sui nostri passi. Ci spingemmo allora ad est, ma senza miglior risultato. Cosicché, dopo un'ora di alpinismo, fatto a rischio di romperci il collo, ci avvedemmo di essere discesi dentro un immenso pozzo di granito nero, dal fondo ricoperto d'una polvere finissima, che non aveva altra uscita se non la stessa aspra via per la quale eravamo venuti. Di nuovo ci affannammo a risalire per ritentare la prova dal lato nord. Da quella parte bisognava usare la massima circospezione, perché la più piccola imprudenza poteva esporci agli sguardi degli indigeni del villaggio. Ci trascinammo dunque lungo il pendio, strisciando sulle mani e le ginocchia, e in certi punti ventre a terra addirittura, aggrappandoci agli arbusti. C'eravamo in tal modo avanzati di poco, quando arrivammo sull'orlo di un abisso ancor più profondo di tutti gli altri, il quale portava diritto alla gola principale. I nostri timori risultavano perciò perfettamente confermati. Ci trovavamo assolutamente isolati, tagliati fuori dal mondo sottostante. Sfiniti da tanti sforzi, riguadagnammo come meglio ci fu possibile la piattaforma e là, gettatici sul nostro giaciglio, dormimmo ore e ore d'un profondo sonno ristoratore. In seguito a questa ricerca infruttuosa, impiegammo alcuni giorni ad esplorare punto per punto la sommità della collina per sapere quali risorse poteva offrirci. Così vedemmo che non c'era da cavarne alcuna sorta di cibo, ad eccezione delle solite dannose nocciole e di una rigogliosa specie di coclearia che cresceva in pochi metri quadrati di terreno e si esaurì prestissimo. Il 15 febbraio, se la memoria non mi inganna, non ne restava più un solo filo e anche le nocciole cominciavano a scarseggiare. La nostra situazione non poteva essere più deplorevole. Il 16 riprendemmo ad esplorare i confini della nostra prigione nella speranza di scoprire un'uscita, ma invano. Esplorammo anche l'abisso dove eravamo stati sepolti per vedere se non si poteva uscire da qualche parte lungo quel budello nel burrone principale. E anche qui restammo delusi, e però vi trovammo un fucile che portammo via. Il 17 uscimmo col proposito di esaminare meglio il vallone di granito nero nel quale eravamo penetrati il primo giorno delle nostre ricerche. Ci ricordavamo di aver osservato solo superficialmente una delle fenditure da cui erano attraversate le pareti, e ci prese impazienza di andare a vedere meglio, benché non ci aspettassimo di trovare di là una via d'uscita. Non ci fu molto difficile raggiungere il fondo del vallone e subito ci mettemmo ad esaminarlo con calma. Si trattava, invero, di un posto singolarissimo, che pareva impossibile fosse opera esclusiva della natura. Sul principio della discesa, cioè per tutto il primo centinaio di piedi dall'orlo della collina, le pareti dell'abisso si rassomigliavano ben poco e non sembravano essere mai state unite. L'una, difatti, era di pietra sapone e l'altra di una marna tutta granulata di non so quale sostanza metallica. La larghezza media tra le due pareti poteva essere di un 60 piedi, ma oltre il limite che ho indicato andava restringendosi rapidamente e le due muraglie, che da prima si fronteggiavano in modo irregolare, cominciavano a correre parallele, per quanto ancora dissimili nella materia e nella fisionomia della loro superficie. A 50 piedi dal fondo, la regolarità diveniva perfetta. Le pareti apparivano perfettamente uguali nella sostanza, nel colore e nella direzione laterale, essendo costruite d'un nerissimo e lucido granito e fronteggiandosi con assoluta esattezza ad un costante intervallo di 20 yard. A dare un'idea precisa del burrone, riproduco un disegno preso sul posto, avendo io avuto la fortuna di conservare, grazie a una scrupolosa attenzione, un taccuino e una matita su di me, attraverso tante avventure, taccuino e matita i quali sono debitore di una gran quantità di particolari che altrimenti si sarebbero confusi nella mia memoria. All'estremità inferiore destra si noti segnata una piccola apertura. Era quella la fenditura di cui ho parlato più sopra, un esame più minuzioso della quale costituiva lo scopo della nostra seconda visita. Tagliando i rovi che ci ostruivano il passaggio e rimuovendo cumuli di ciottoli acuminati che sembravano punte di freccia, per essa ci spingemmo pieni di ardore. Stavamo per uscircene da quella cavità, nella quale la luce giungeva assai debole, quando Peters richiamò la mia attenzione su una fila di strani segni che decoravano la parete di marna in cui terminava quel vicolo cieco. Con un po' di fantasia si poteva vedere nel gruppo di segni a sinistra l'intenzionale, per quanto rozza, immagine di una persona umana in posizione eretta e con un braccio teso. Il resto dei segni aveva una certa somiglianza con dei caratteri alfabetici e Peters, afferratosi a questa oziosa supposizione, sostenne che erano veramente tali. Ma io riuscii, infine, a convincerlo del suo errore, indicandogli il suolo dove, tra la polvere, si vedevano grossi frammenti di marna, evidentemente distaccatisi, per qualche convulsione tellurica, dalla parete in questione e che, alla prova, risultarono ancora in certi punti adattarsi perfettamente ai vuoti dei segni, i quali così si dimostrarono essere completamente opera della natura. Convintici che tutto quel singolare sistema di baratri non ci offriva alcun mezzo di uscire dalla nostra prigione, noi ritornammo sui nostri passi, avviliti, scoraggiati, verso la sommità della collina.